Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi al Cacciatore di Libri facciamo un'intervista tandem, un'intervista a due scrittori in contemporanea, Massimo Carlotto e Marco Videtta, perché hanno scritto insieme a quattro mani un romanzo, ma non è solo un romanzo, in realtà questo romanzo va moltiplicato per quattro, quindi oggi stiamo dando un po' i numeri, due scrittori, quattro romanzi, però parliamo solo del primo romanzo. La serie si chiama Le Vendicatrici ed è pubblicata da Einaudi nella collezione Stile Libero Big. Il primo di questi romanzi si chiama Xenia, come la protagonista. Allora, partirei da Massimo Carlotto. Massimo, com'è nata l'idea di questi quattro romanzi nei quali tutte le protagoniste sono donne? Beh, 3 anni fa abbiamo cominciato a osservare la realtà che ci circondava e abbiamo intuito che la condizione femminile in relazione alla crisi sarebbe peggiorata. E quindi abbiamo cominciato a ragionare in questo senso e alla fine, osservando un quartiere di Roma, abbiamo raccolto molto materiale e alla fine abbiamo detto: un romanzo non basta. Ho detto, ce ne vogliono almeno 4. E poi mi hanno detto, sì, però aspettare tanto tempo per farli uscire. Allora, 4 donne, a proposito di dare i numeri, 4 donne, 4 romanzi in 6 mesi. Allora, diamo anche la scansione di questi romanzi. Primo romanzo, ora in libreria, Xenia. Poi sarà la volta di Luz, poi Sara e poi Eva. Giusto l'ordine o ho fatto confusione? Ecco, no, Marco Videtta. Solo una piccola confusione, perché il secondo che esce a giugno sarà Eva, poi Sara e poi Luz. Allora, proviamo a descrivere questi personaggi. La prima protagonista, Xenia, è una ragazza che viene dall'est e che ha un sogno. Quale? Sì, è una ragazza siberiana che sì, ha un sogno, si potrebbe dire quasi il sogno del principe azzurro, nel senso che è entrata in quella che viene chiamata nelle cronache la tratta delle spose, cioè senza andare troppo per il sottile si rispondono a degli annunci gestiti da certe agenzie appunto matrimoniali che combinano matrimoni, un po' come accadeva a volte anche ai nostri emigranti tanto tempo fa. Se non che non tutte queste agenzie lavorano in piena legalità e quindi queste ragazze possono finire, come accade alla nostra protagonista, nelle maglie, nelle reti di un'organizzazione di fatto criminale, e quindi nelle prime pagine proprio del romanzo lei si aspetta di incontrare un fascinoso quarantenne italiano e invece finisce nelle grinfie di un personaggio veramente orribile. Un personaggio orribile che è poi lo strozzino del quartiere di Roma dove è ambientata praticamente quasi tutta la storia di questo romanzo. Massimo Carlotto, ovviamente anche e soprattutto in questo caso avete tratto spunto dalla realtà, insomma la tratta delle schiave, come viene chiamata, è una realtà anche in Italia. Sì, è una realtà, la realtà che noi abbiamo osservato l'abbiamo poi descritta, ma è frutto anche di una lunga indagine. Noi abbiamo scelto alcune situazioni molto precise, tipo la relazione tra donne tratta alle spose, donne gioco d'azzardo, donne prostituzione, donne usura, e abbiamo cominciato a ragionare in questo senso, nel senso che ci interessava raccogliere anche del materiale, ma soprattutto i personaggi. Abbiamo lavorato molto sui personaggi e abbiamo trovato i personaggi che avevano molto spessore, quindi la realtà è molto legata proprio alla vita personale di queste persone che abbiamo visto in questo quartiere. Infatti la protagonista del primo romanzo è Xenia, però già tutte e 4 le donne compaiono in questo primo romanzo perché le loro storie sono in qualche modo intrecciate. Abbiamo detto Xenia, la ragazza che viene dalla Siberia, ci puoi descrivere le altre, Massimo? Eva è una signora di 40 anni che ha una profumeria in quartiere, è una donna normalissima che pensa di avere una vita assolutamente normale, ma un giorno scopre che il marito gioca d'azzardo, gioca alle slot machine e sostanzialmente si gioca tutto, quindi la lascia in mano agli usurai e quindi la sua vita non è più normale da tutti i punti di vista. Poi abbiamo Luz. Luz è una colombiana arrivata anni fa in Italia, però il sogno è finito presto e per mantenersi deve prostituirsi. Ha una figlia in un collegio. E poi abbiamo Sara. Ecco, di Sara non possiamo dire nulla, perché Sara è un misteriosissimo personaggio che noi sveleremo solo nel terzo romanzo. Siete stati cattivi in questo, perché io quando ho letto questo romanzo volevo arrivare subito alla fine per scoprire il mistero di Sara, invece ovviamente bisognerà aspettare qualche mese per scoprirlo. Marco Videtta, Xenia inizia ad avere insomma un'amicizia, una dolce amicizia con Lutz. Questa amicizia le dà una speranza di riscatto? Assolutamente sì, perché l'incontro avviene in modo casuale, nel senso che si trovano a vivere una di fronte all'altra, nei due palazzi di fronte di questo quartiere che è un po' la metafora di questa Roma che sta un po', come dire, marcendo in questo periodo. E proprio c'è una scena che ha una forte visualizzazione, perché questa ragazza siberiana, nel momento in cui crede proprio di aver toccato il fondo, no, è sola nella sua disperazione, guarda fuori dalla finestra e vede questa bellissima ragazza che poi però a un certo punto chiude la tenda per motivi che Massimo ha spiegato prima, perché sta lavorando, diciamo così. Poi però si rincontrano sempre all'interno del quartiere e scoprono di colpo di... hanno un colpo di fulmine, diciamo così, proprio un classico colpo di fulmine, quasi da romanzetto sentimentale, come quelli dove la ragazza siberiana ha imparato l'italiano, no? Lei ha imparato l'italiano leggendo i romanzi, quelli rosa, insomma, no? Stile Harmony. La maggior parte dei personaggi maschili, quasi tutti, sono dei personaggi negativi. L'unico che si salva è questo badante cubano che si prende cura di una vecchia signora e che è amico di Lutz. Come mai, Massimo Carlotto, avete deciso insomma di fare questa divisione netta, femmine buone ma vendicatrici e maschi cattivi? Ma perché, innanzitutto perché il nostro intento era quello di raccontare gli uomini sbagliati attraverso le storie di queste quattro donne. Poi perché questo personaggio è un personaggio, secondo noi, straordinario, ha 70 anni, è cubano, ha un passato molto, anche molto politico alle spalle, è arrivato in Italia con una quotidianità da migrante, con tutto quello che comporta, e adesso fa il badante accompagnando alla morte proprio queste signore che sono malate terminali. Ecco, la scelta di questo personaggio è ben precisa, perché racchiude una memoria molto importante, anche una cultura della solidarietà. E infatti lui si prende cura di Luz, ma anche delle altre, poi in maniera assolutamente particolare. Il fatto che dia un libro da leggere, questo qua, vuol dire che complessivamente si prende cura con grandissimo rispetto di queste donne. E, però nel corso di tutto il ciclo ci saranno altre figure positive maschili, nel senso che non tutti sono cattivi, non tutti sono buoni, no? E da una parte e dall'altra. E poi, se posso aggiungere, comunque anche in questo primo romanzo invece c'è un personaggio femminile cattivissimo, cioè la vera antagonista comunque è donna. Questo ci abbiamo pensato perché appunto non volevamo poi creare proprio una frontalità un po' ideologica, anche un po' schematica, no? Tra maschi e non era maschi contro femmine, tanto per parlare di un certo cinema che insomma non tanto ci appartiene. E c'è, crediamo, insomma, un personaggio che nella sua cattiveria, proprio perché deve assumere un ruolo di comando molto maschile, eccede insomma nel suo esercizio di questo potere, diventa appunto una donna spietata, direi. La vendetta è il sentimento che lega tutti questi quattro romanzi e che lega un po' le protagoniste femminili, visto che la serie si chiama Le Vendicatrici. La vendetta può essere anche qualcosa di positivo, Massimo Carlotto? Sì, la vendetta può essere qualcosa di positivo quando è la rivolta delle vittime, quando la vendetta è uno strumento utile al riscatto. Infatti per noi le nostre vendicatrici sono donne che hanno un progetto di vita ben preciso. Da un lato non rinunciano all'amicizia, all'amore, a sentimenti molto forti, alla solidarietà. Dall'altro vogliono usare la vendetta per riscattarsi, per avere un'altra vita. Ecco, a noi interessava molto questa dimensione della progettualità positiva. Marco Videtta, come avete gestito questa scrittura a quattro mani su quattro romanzi? Insomma, non deve essere una cosa semplice. No, naturalmente ci è voluta una grande intesa, che d'altra parte però avevamo con Massimo già avevamo scritto insieme un altro romanzo qualche anno fa che si chiamava Nord-Est, in cui avevamo raccontato altre malefatte, diciamo, di questo paese. Ma diciamo che noi abbiamo di solito mutuiamo delle tecniche che vengono dalla scrittura cinematografica o della fiction televisiva, nel senso, dal lavoro di sceneggiatura, nel senso che ovviamente prima discutiamo molto per tirar fuori le idee, poi queste idee le sistematizziamo in una sorta di scaletta, si dice tecnicamente, insomma per blocchi di racconto che poi ci dividiamo nella, materialmente, perché sarebbe impossibile scriverli insieme, e però poi rimpastiamo continuamente, ci passiamo questi blocchi, ognuno dei due ci lavora sopra fino a che non siamo abbastanza sicuri che sia venuto fuori un po' uno stile terzo che non è né quello di Massimo né il mio quando scriviamo individualmente. Proporre quattro romanzi che escono a distanza di qualche mese l'uno dall'altro è anche una sfida dal punto di vista editoriale, visto che siamo in un periodo in cui si vendono pochi libri, insomma una persona che si appassiona ai vostri romanzi poi ne deve comprare uno dopo l'altro. Innanzitutto, vanno letti in serie? No, non possono anche essere letti in maniera disgiunta, nel senso che ogni romanzo è una storia a sé e quindi possono essere anche letti, vuol dire, anche in ordine non cronologico. E noi abbiamo fatto questo ragionamento sulla serialità pensando che da un lato si è accorciato il tempo di fruizione delle serie, nel senso che i lettori ogni volta che ti incontrano ti dicono: ma quando esce il prossimo romanzo? E abbiamo detto: apriamo e chiudiamo un ciclo in pochissimo tempo. Ma l'abbiamo fatto anche pensando ai librai. I librai sono dei grandissimi sostenitori di questa idea, infatti tutti sono molto curiosi di vedere come andrà, però i librai sono dei grandissimi sostenitori perché sono in grado di gestire un ciclo in poco tempo, di averlo in libreria. E finora abbiamo riscontrato veramente commenti molto, molto entusiasti, sì, su questo. Però la domanda che si fa sempre a Massimo Carlotto è: quando torna l'Alligatore? Non solo quando scriverà il prossimo romanzo. Allora dacci una risposta definitiva, perché altrimenti non possiamo veramente più vivere senza. Assolutamente definitiva, 2015. L'Alligatore compie 20 anni, io anche di scrittura, e quindi festeggeremo con ben 2 romanzi. E nel frattempo possiamo festeggiare invece leggendoci questi 4 romanzi della serie Le Vendicatrici. Il primo in libreria si intitola Xenia, l'hanno scritto Massimo Carlotto e Marco Videtta per Einaudi Stile Libero. Anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.